your fingers and the continents on your head or in your right hand. This new moral code that the media Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui a Diabolus in Musica. Come state? Allora, oggi è una giornata, una puntata un po' particolare, non andrò avanti con la solita rubrica. Vi voglio parlare di un gruppo al quale mi sono approcciato da pochi giorni, cioè lo conoscevo già, ma anni fa quando lo scoprii non mi piacque tanto, quindi lo lasciai lì l'idea di un po' di tempo, no? Come si fa a volte. Certi gruppi li ascolti la prima volta, non ti piacciono, dici vabbè, li riascolto tra 2 o 3 anni. Ecco, l'altro giorno ci sono inciampato di nuovo loro, ho iniziato a riascoltarli e mi sono piaciuti moltissimo, quindi non lo so, voglio farveli ascoltare anche voi oggi, e magari li conoscete già o magari no, quindi ve li faccio scoprire ancora meglio. Allora, il gruppo si chiama Ghost. Negli Stati Uniti hanno dovuto cambiare nome per motivi legali, si chiamano Ghost BC, Before Christ. Ed è un gruppo heavy metal sostanzialmente, horror rock, diciamo, svedese. E si è formato intorno al 2006. E praticamente la loro particolarità è che hanno un look assolutamente che richiama tutta l'atmosfera horror, no? Quindi mostri classici, Frankenstein, eccetera, eccetera. Il cantante e leader, diciamo, è vestito da papa satanista e si chiama, fa chiamare Papa Emeritus e ha una maschera molto simile, ricorda il volto molto simile a quel logo dei Misfits, no? E quindi ha una maschera di quest'uomo anziano e sopra la maschera si passa la cera bianca e nera per formare questo teschio, insomma. E lui è il cantante. Tutti gli altri membri del gruppo si chiamano Nameless Ghouls. E sono tutti mascherati con queste. Inizialmente avevano dei cappucci con delle maschere veneziane nere, e negli ultimi anni indossano queste maschere argentate che hanno una faccia a punta con le corna e i capelli leccati all'indietro. Sono un gruppo molto particolare. Vabbè, parte l'ovvio background. E horror che si portano per via dei loro costumi, degli spettacoli che fanno. Però appunto il cantante potrebbe proprio collocarsi in uno dei mostri sacri, no? L'uomo lupo, Frankenstein, l'uomo mummia, la mummia, l'uomo mummia, la mummia, insomma, Dracula, no? Ecco, lui potrebbe collocarsi tra questi personaggi horror famosissimi, ecco. La loro musica diciamo che a tinte per loro scelta, ho letto qualche intervista, il cantante diceva per scelta, il gruppo voleva, secondo lui, come ce l'aveva lui in mente, voleva che suonasse come un gruppo degli anni 70, come voleva la sensazione voleva dare agli ascoltatori, che tu scopri Ghost, è come se stessi scoprendo un gruppo degli anni 70, invece è un gruppo degli anni 2000, infatti il primo CD è del 2010 addirittura. E nulla, quindi vi dicevo, hanno tinte rock anni 70, miste al pop, però in tutto questo è permeato da un alone di, non dico musical, ma tipo una rock opera, no? Come può essere il Fantasma del Palcoscenico o Rocky Horror Picture Show, ecco. Infatti i loro spettacoli sono molto vistosi, come il vestito del cantante. E nulla. Per ora vi faccio ascoltare un loro pezzo che si chiama Siris, tratto da Meliora del 2015. Quindi ci ascoltiamo questo e poi si chiacchiera un po' su questo gruppo. Thank you. can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. Questa, ragazzi, era Ghost di Siris. Era Siris dei Ghost. Al contrario. E, bene, per chi si fosse collegato adesso, vi sto facendo ascoltare questo band che, come dicevo prima, appunto, mi ci sono riapprocciato pochi giorni fa e mi è piaciuta veramente molto, molto, molto. Avete sentito? C'è questa voce delicatissima, accosta da queste chitarrone molto cupe, orrorifiche, no? Tutto questo alone si rifà un po' al rock, il primo heavy metal degli anni 70, dei Black Sabbath, insomma. C'è tutto quel background lì e altro, ma non lo so ancora visualizzare perché li sto ascoltando da troppi pochi giorni. Come dicevo prima, il cantante, che poi il gruppo ha fatto molto, cioè la maggior parte del successo al di là della musica, che è bellissima, però l'ha fatto anche grazie, diciamo, all'immagine con la quale si è posta al pubblico. Dicevo che tutti i componenti della band sono mascherati, e i chitarristi, gli strumentisti, diciamo, si chiamano Nameless Ghouls, hanno tutti la stessa maschera. Il cantante invece è vestito da un papa, si fa chiamare Papa Emeritus, con una croce al contrario sul cappello papale, non mi ricordo come si chiama. E la cosa figa è che ad ogni album E fanno abdicare il Papa praticamente. E quindi di album in album c'è sempre un nuovo Papa, sempre più giovane. Quindi cambia nome, cambia trucco, cambia vestiti, abiti. Ed è una cosa pensata proprio benissimo, perché cambiano gli spettacoli, i video, cambia lui il modo di parlare nelle interviste. È bellissimo, è proprio a livello attoriale anche, cioè, è una cosa fantastica. Quindi si parte dal Papa Emeritus I, che va dal 2008 al 2012, Papa Emeritus II, terzo, così via, e oggi si chiama Cardinal Copia, e adesso oggi è un cardinale. No, l'ultimo, vediamo, ecco, Papa Emeritus IV. Però praticamente negli ultimi anni ha tolto è rimasta sempre la maschera di plastica, di un signore anziano in faccia, insomma. Però si è tolta la pittura, a volte si toglie la pittura, rimane solo la faccia di plastica, con gli occhiali da sole. Tanta roba, molto evocativo, veramente bravi, bravi, sono veramente bravi, sì. E la cosa figa, strana, che mi ha colpito questi giorni, è che mi piace veramente tanto questa ambiguità, questo accostamento, no, tra un look oscuro, comunque orrorifico, no? Dice, no? Poi senti questa voce angelica, pulita, no? Molto pop. Lo so, è un accostamento secondo me riuscitissimo. Nulla, quindi andiamo avanti. Vi faccio ascoltare questo giro, Square Hammer, che credo sia tratto sempre da no. Vabbè, insomma, non mi ricordo, ragazzi, da dove cazzo è tratto questo pezzo. Però è bellissimo. Si chiama Square Hammer e questi sono i Ghost. Night. Bellissimo, e questa era Square Hammer dei Ghost. Comunque vi consiglio di andare a vedervi i concerti o i video sono bellissimi, hanno tutto questo, sono creato tutto questo immaginario bellissimo, post punto horror o cinema muto, insomma, tutti quei riferimenti là, ecco, bellissimo, approfonditeli se vi piacciono naturalmente. Prendo conto che il primo approccio è molto, molto particolare e strano. No, come ho detto prima, io la prima volta li ascoltai non li capii, non mi piacquero tanto. Devi smussare un po' i tuoi gusti per farti piacere, ecco. E sì, comunque stavo dicendo, la voce, vedi arrivare questo papa con questa croce al contrario in testa che entra sul palco con questo mantello nero, tutti e poi canta e esce. Quando canta esce questa voce molto delicata, no? Contrasto veramente forte, secondo me molto gli hanno aiutato molto a fare successo, musicalmente parlando. Ascoltiamocene un'altra, ci ascoltiamo Year Zero, tratta da Infestissumam. Azbodius, Satanas, E questa era Year Zero dei Ghost, tratta da Infestissumam, penso si legga così, del 2013. Andiamo avanti, ce ne ascoltiamo adesso una, e sembra uscita direttamente dagli anni 80, super poppeggiante, che si chiama Kiss the Go-Goat. Ste Go-Goat fanno un po' che cazzo vogliono questi qui, eh? Molto molto bene, bene, bene, bene. Spero vi stiano piacendo quanto mi stiano piacendo a me. Ora ci ascoltiamo una canzone, ce l'ascoltiamo insieme. Io non l'ho mai ascoltata, quindi la prima volta l'ascolto con voi. Si chiama Ritual. Tratta dal primo album del 2010. Tonight Questa erano i Ghost con Ritual, canzone tratta da Opus Eponymous del 2010, primo CD della band. Ma la prima volta che ascoltavo questo brano non è sicuramente maturo e forte come quelli che abbiamo ascoltato prima, come gli ultimi che hanno fatto, ma è sicuramente un gran bel pezzo. Mi ricorda molto i Kiss, stavo pensando adesso, vero? Ricordano molto l'universo di The Kiss, l'immaginario, vabbè, un po' come tutte le band decidono di usare il mascheramento come approccio al pubblico. Un po' sono non pensare a Kiss, insomma, perché sono stati i primi a portare a livelli alti, insomma, questo concetto, a imporsi nel mio immaginario collettivo con questa roba qua. Va bene, andiamo avanti e ci ascoltiamo. Salto d'album in album, ragazzi, così è più emozionante. Ci ascoltiamo. Vai. Is. Questa è anche la prima volta che l'ascolto. Vediamo. È tratta dall'ultimo CD, mi pare. È prequel del 2018. Se non sbaglio. Forse ho detto una cagata. Infatti ho detto una cagata. No, è Di Meliora del 2015. Vediamo un po'. Is dei Ghost. We're standing here by the abyss, and the world is a place. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me. Nostro disparte, nostra amante. We're hiding here inside the deep, and all our doubts are now destroyed. Guidance of the morning stars will lead the way into the void. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he is fight, he's the force that made me. Bella, bella, bella. Questo era He is the Ghost, tratto da Melior, penultimo album della band. Sentite, se qualcuno dovesse venire a chiedermi perché mi sta piacendo questa band, non saprei cosa dire, che non lo so, non lo so, devo ancora digerire, ancora capire il perché mi stia piacendo così tanto. Non lo so, io lo trovo geniale, cioè tutto il concetto che c'è dietro, tutta la cura dei personaggi, negli anni, degli album. Adesso ci ascoltiamo, vediamo un po', ascoltiamo Secular Haze, che ha un video bellissimo, sembra uscito da un televisore degli anni 70 appunto, uno di quei televisori americani, i primi colori, ecco, che c'erano, quindi molto saturati, ai limiti degli screen, del sopportabile. Quindi ci ascoltiamo questo video, ci ascoltiamo questa canzone, Secular Haze, che è tratta da Infestissumam, non riuscirò mai a pronunciarlo, Infestissumam, ecco, del 2013. Sì, lo so che vi sto rincoglionendo forse tra album, mi sto saltando tra album e album, però non mi andava di fare la scalettina, ecco, solita, così mi diverto anch'io un po', forse vi divertite anche voi di più. Secular Haze dei Cosby C. E questa era Secular Haze, come dice il nostro amico qui, Papa Emeritus II, credo che era qui. E, bello, bello, bello. Andate a vedere questo video, Secular Haze, ragazzi, segnatevelo. Poi comunque vi scrivo la canzone in scaletta. Ma guardate tutti i video di questa band, perché secondo me sono... Cioè, se vi piace l'horror, vi piacciono i classici mostri come Dracula, Frankenstein, eccetera, eccetera. Vi piace tutto quell'immaginario, secondo me questa band fa per voi. Naturalmente vi piace anche il rock. Allora, adesso ci ascoltiamo gli ultimi due brani e poi ci salutiamo. Me ne vado a fare in culo, va bene? Partiamo da From the Pinnacle to the Pit, tratto da Meliora, quindi penultimo album. E poi ci ascoltiamo una canzone dell'ultimo CD, che è bellissima, che non riesco a smettere di cantare questi giorni. Direi che ha funzionato bene. Vai, partiamo subito. From the Pinnacle to the Pit, dei Ghost. Bellissimo questo, ragazzi. From the pinnacle. Questo era From the Pinnacle to the Pit. Bene ragazzi, adesso passiamo all'ultimo brano di oggi. Quindi vi saluto e spero che ci risentiremo il giovedì prossimo. Forse continuerò la rubrica che avevo lasciato, quindi andrò avanti con Nicole Rose on Of Conformity. E inizierò forse le Hate God. Chi lo sa che cazzo succede. Quindi vi saluto, siate giusti e buoni gli uni con gli altri. Una benedizione qui da Papa Emeritus III, IV, come cazzo si chiama lui. Pace e amore, spero non vi abbia annoiato e che vi abbia fatto scoprire un bel gruppo, o se lo conoscevate già, che vi abbia fatto divertire, insomma. A presto, pace e amore. Vi lascio con See the Light, tratto dall'ultimo CD di Prequel. E a presto, bye bye.